ma è molto meno. Enca che enca, si è il suo dimmi a te mai un tu. E mi cari un tu. Potemi dar muta di la lam. Ma il man per la lam. Vai naura, voce ira te caura, con voce flover pover, poi sata vuota sente l'omber, placcia nel giorno, bel capo che sta, e capuzzo che sta, che cori sono in mai via e manchi noi da noi di savare mai via big sky che cori sono in mai via ogni ricca ma vai la pizia o le pepo delle muda e le trauta e le cariche auri auta auta e mai tanto e tu poi stava poi non essere takaisin menneeseen ikään kuin sinne 60-luvun loppupuolelle.